Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone che cominciamo immediatamente con un brano fresco fresco che ci arriva dall'Italia e poi vi racconteremo che cosa abbiamo in serbo per voi in quest'ora di Zibaldone dalle 5 alle 6 tutti i venerdì su Radio Contrabanda. Con questo brano abbiamo aperto lo Zibaldone di quest'oggi, ultima puntata del mese di settembre. Si tratta dei Bud Spencer Blues Explosion, una band attiva da parecchi anni. Mancava però un nuovo disco da ormai un lustro, uscirà Next Big Niente, questo è il titolo del loro nuovo album, tra un mese, il 27 ottobre, anticipato da alcuni singoli, tra cui anche questa In Sintesi. Ma ci tengo subito a dare il benvenuto, il bentornato al nostro ergonomico Banzo. Banzo, buon pomeriggio a te. Che cosa ti sia sembrato questo brano dei Bud Spencer Blues Explosion? Beh, innanzitutto va detto che quando un gruppo ha un nome così bello, il giudizio è, diciamo, che si inclina verso il positivo a prescindere. Però sì, mi è sembrato diverso da come ricordavo la produzione del duo. Mi sembra aver preso una direzione, non sono un esperto della loro produzione, ma mi sembra che questo brano abbia una falsa riga psichedelica più marcata rispetto al passato. E comunque, Steven, scusa la maleducazione, siamo partiti a bomba, ma buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Banjo. Sì, Bud Spencer Blues Explosion, lo ricordiamo, formati da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio, insomma, sulle scene da parecchio, album molto belli, molto conosciuti, che tra l'altro hanno anche cambiato un po', appunto, di stile. Tu dicevi, A Fuoco Lento uscì nel 2011, parteciparono a molti concerti, l'album BSB3, ne parlammo anche qui a Zibaldone nel 2014, e Vivi Muori Blues Ripeti nel 2018, tra l'altro. Quindi, insomma, un disco di cui torneremo a parlare. Un disco che ci accompagna in questa in questo inizio di puntata, che lo ricordiamo, Banjo, insomma, i nostri ascoltatori magari con la nuova sigla di Fiorino se ne sono resi conto, questa nuova stagione insomma, ha molte novità, dalla durata un'ora, dalle 5 alle 6 una nuova sigla e anche, appunto, un nuovo formato. Noi però insomma, quest'oggi non parleremo, Banjo, solo di musica. Ci saranno altre news che ci arrivano dall'Italia, ma parleremo di politica, perché quest'oggi, insomma, abbiamo voluto intitolare la nostra puntata I grattacapi di Giorgia, perché, insomma, in fin dei conti ci sembra che Giorgia Meloni, ovviamente, abbia qualche grattacapo. Sì, esatto. No? Perché giustamente l'hai detto, non parleremo solo di musica, perché se tu intitoli una puntata I grattacapi di Giorgia, poi sembra che tu ti stia riferendo alla cantante. Allora hai fatto bene a precisare che non parlavamo solo di musica, ma anche di politica, quindi stiamo parlando della Meloni. E sì, cioè, effettivamente io non verrò in questo programma a dire no, il governo sta facendo tutto benissimo, un po' perché non è vero e un po' perché su questo argomento decisamente, diciamo, ci troviamo d'accordo, ecco. Siamo dalla Spagna. Vediamo impotenti succedere queste cose che decisamente non incontrano il nostro favore. Sono stato molto molto molto diplomatico. Eh sì, ma al di là di questo, anche un governo che a un anno dalla vittoria elettorale dello scorso 25 settembre 2022, per quanto sembra solido anche per la maggioranza che ha, in realtà, appunto, insomma, comincia ad avere diversi problemi, dall'economia alla incapacità di gestire i flussi migratori, oltre, appunto, all'inflazione, la benzina, insomma, le relazioni europee. Ecco, per questo I grattacapi di Giorgia, e di questo parleremo con l'ospite di questa puntata di Zibaldone, che è Matteo Pucciarelli, giornalista della Repubblica, un professionista che segue molto la politica italiana, non solo per la Repubblica, anche con diverse pubblicazioni, diversi libri in questi anni, e con lui, insomma, cercheremo un po' di fare il punto della situazione della politica italiana, ma poi in realtà incontreremo la politica anche nel libro della settimana, che scoprirete tra poco più di una mezz'ora, una quarantina di minuti. Banjo, però, per introdurre l'intervista con Matteo Pucciarelli, che già in linea ci sta attendendo, insomma, tra poco lo conoscerete, o meglio lo sentirete, perché lo conoscete sicuro, andiamo a sentirci un brano che vorrebbe un po' introdurre il tema politico con la musica, no? Un artista di cui noi abbiamo parlato in più occasioni qui a Zibaldone, Angus McHogg. Esatto, sì, questo in realtà artista, perché nasce come progetto solista, ma è un gruppo modenese, sonorità folk, e questo è già il terzo brano che trasmettiamo dal loro ultimo album Sirius, quindi a questo punto, Steven, siamo pronti per l'intervista, direi. E perché introduce il tema politico? Per il titolo molto ironico che è Communist Party Party, cioè la festa del Partito Comunista, cioè la festa dell'unità, anche se ovviamente in inglese questa espressione non ha quel senso, ecco, per un nativo. Eh sì, e c'è anche un videoclip che, insomma, proprio è ambientato nella festa dell'unità, con anche molta ironia. Andiamoci a ascoltare Angus McHogg, scusate, Communist Party Party, e poi parliamo con Matteo Pucciarelli dei grattacapi di Giorgia, ovviamente Giorgia Meloni. Well, it may sound weird west of Berlin, something housed by car for pride. But here Philips bulbs, liquor walls hang like drops in a bright desire. Get somebody, find me somebody else, somebody now. If they want me digging, swinging, singing, kicking, licking, all roads lead to a jazz. saremo qui in diretta ed abbiamo con noi ospite quest'oggi a Zibaldone Matteo Pucciarelli, giornalista tanti anni alla Repubblica, autore di diversi libri, l'ultimo si intitola Guerra alla guerra, guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano, uscito per i tipi La Terza, ma già prima Matteo Pucciarelli aveva scritto su diversi fenomeni della politica italiana, a cominciare dai 5 Stelle, poi la sinistra anche internazionale, e nel 2016 era uscito per Feltrinelli anche Anatomia di un populista, la vera storia di Matteo Salvini. Matteo, innanzitutto ben ritrovato, un piacere averti con noi a Zibaldone. Grazie, piacere mio. Con te parliamo un po', insomma, della situazione politica italiana. Siamo a un anno dalla vittoria elettorale di Giorgia Meloni, un anno praticamente di governo di estrema destra. Cominciamo con magari alcune battute, Matteo, su un po' qual è secondo te il bilancio di questi primi 12 mesi di governo Meloni. Allora, ci sono dei pro e dei contro. I pro ovviamente dal punto di vista di Meloni, nel senso che il consenso del governo italiano rimane comunque abbastanza buono. Secondo i sondaggi, Fratelli d'Italia continua ad essere il primo partito rispetto all'elezione dello scorso anno, anzi ha aumentato la propria percentuale di un paio di punti. Il centrodestra resta maggioranza nel paese, questo è il lato positivo del primo anno di governo. Sul fronte delle cose fatte oppure non fatte rispetto alle promesse che il centrodestra aveva prospettato al paese, beh, lì si può dire che è un discreto fallimento, nel senso che sugli argomenti principali che erano stati materia di propaganda del centrodestra, della destra anzi più che centro, degli ultimi anni, si può vedere che insomma è stato un fallimento a tutto tondo. Il caso dell'immigrazione ovviamente è quello più evidente. Per anni si è fatta propaganda dicendo che bastava chiudere i porti o fare la faccia dura con i migranti, pensando che non tenendo conto che fosse un fenomeno, diciamo, globale, di molto più complesso, e oggi appunto vediamo che il numero di persone arrivate nel nostro paese è raddoppiato rispetto allo scorso anno. Chiaramente questo dimostra appunto quanto fosse propagandistico l'approccio di prima e quanto poi è difficile in realtà fronteggiare dei fenomeni complessi, ma un po' su tutto così. Il centrodestra, la destra, il governo, insomma, sta dimostrando di non essere all'altezza, e insomma basta anche un po' scorrere la lista dei ministri per capire che c'è anche proprio forse probabilmente un deficit di personale politico. E questo è molto interessante perché, insomma, negli ultimi tempi si sta cominciando a parlare, non solo sulla stampa italiana, delle difficoltà, al di là del consenso, della maggioranza così ampia in Parlamento, del governo Meloni. Recentemente il Financial Times aveva titolato, insomma, che era finita la luna di miele di Meloni con gli italiani, ecco. Ma al di là del titolo del Financial Times, ecco, tu ponevi, insomma, sottolineavi i problemi che si trova a gestire, i grattacapi, se così vogliamo, del governo Meloni, a partire dall'immigrazione, ma insomma ce ne sono anche altri, pensiamo all'inflazione, alla questione della benzina così rivendicata in passato, no? Sì, la questione della benzina secondo me è molto interessante, non tanto esclusivamente per la cosa in sé, ma proprio perché racconta del boomerang che ti torna indietro, di quando tu per anni appunto imposti tutta la tua politica sulla contestazione fine a se stessa, propagandistica a tutto tondo, no? Quindi appunto Meloni, che per anni insieme a Salvini hanno banalizzato la questione dicendo che bastava togliere le accise, che problema c'era, lo stato pappone, i governi degli altri papponi che si facevano i soldi con le accise, poi una volta che sono andati loro al governo le accise sono rimaste, il prezzo della benzina è schizzato al di sopra dei 2 euro al litro, e qual è la soluzione? Non parlare più dell'argomento, come se non fosse più un tema di attualità o come se non interessasse più agli italiani, no? Agli italiani. E da qui un po' si vede veramente come anni e anni di questo tipo di comunicazione poi ti portino il conto una volta che riesci a ottenere il consenso popolare che ti porta al governo, perché poi tutto ti si ripercuote contro. Ma è un po' su tutti gli argomenti. Di fatto l'Italia è isolata in Europa, come il governo italiano. Ci sono i ritardi sul PNRR dell'ottenimento dei fondi perché i progetti non vengono portati avanti. Si è favoleggiato su un piano Mattei per interloquire con l'altra sponda del Mediterraneo, ma abbiamo visto con la Tunisia come è andata a finire, se erano stati promessi dei soldi, non sono stati dati. Insomma, la manovra che si appresta a fare questo governo non sarà espansiva, ma tutt'altro. Quindi i fatti sono molto negativi, e questo sta incominciando anche a trasparire dal punto di vista economico internazionale, nel senso che Meloni ha tentato di, una volta andata al governo, di incarnare una politica filo atlantista netta, e questo gli ha dato sicuramente del tempo e delle aperture di credito. Quindi, nonostante la presenza della Lega e nonostante il fatto che Fratelli d'Italia negli anni passati avesse mostrato più volte apprezzamento per Putin, si è subito riposizionata a favore dell'intervento, degli aiuti militari in Ucraina, e insomma una totale acritica adesione all'atlantismo, però sul piano economico l'Italia non sta andando assolutamente bene, e i mercati cominciano ovviamente a far sentire la propria, insomma, c'è la sensazione che alla fine questo governo non sia assolutamente in grado di governare questo paese. E questo dell'economia io credo che sia un punto davvero dirimente in fin dei conti, perché insomma già in passato si è visto come molti governi hanno avuto grossi problemi anche sulla propria stabilità, proprio a partire, come anche logico, dall'economia per un paese con un debito pubblico come quello italiano. Ecco, qui da questo punto di vista tu che scenari vedi, anche visto che si sta cominciando a parlare e a mettere nero su bianco quali saranno un po' insomma le misure della prossima legge di bilancio? Io prevedo una rivisitazione in realtà di un sistema comportamentale classico della destra, soprattutto quella radicale, ma non solo, negli ultimi anni, cioè il vittimismo, cioè non riuscendo a risolvere alcun tipo di problema, non essendo in grado, non avendo neanche, come dicevo prima, il personale politico per farlo, andrà a finire che si comincerà a dire l'Europa dei burocrati cattivi, la grande finanza internazionale ce l'ha con noi, sempre questo, diciamo, questo vittimismo verso nemici mai ben identificabili, però quel che serve, quel che basta per mantenere un consenso interno. Nulla di nuovo rispetto a quello che fa la destra, però il sospetto è che alla fine utilizzino questa chiave di lettura della realtà per continuare a mantenere appunto il consenso nel paese. Poi uno si può anche domandare perché, se le cose vanno così male, continuano ad avere consenso. Lì la risposta non è facilissima, ma probabilmente perché comunque la destra in Italia ha una sua egemonia culturale, quindi i sistemi comunicativi e i temi portati all'ordine del giorno negli ultimi anni continuano ad essere assolutamente attuali, e il paese recepisce questo tipo di comunicazione. E questo io credo che sia anche un punto molto importante, se ne è parlato, no, negli ultimi mesi anche sui giornali, su questa volontà, no, dell'egemonia culturale di destra, pensando anche al ministro Sangiuliano, eccetera. Ma dal tuo punto di vista, insomma, anche come analizzi, anche comparandolo per esempio con gli anni di Berlusconi al governo del passato, dove c'era stato anche un intervento molto marcato, no, sulla televisione pubblica in altri ambiti. Ecco, ma quello che sta facendo la destra, no? In fin dei conti direi un'occupazione manu militari, non solo della RAI, ma anche appunto il tentativo sui musei, piuttosto che in altri ambiti. Ecco, tu come lo analizzi? Lo vedi in linea di continuità col berlusconismo? Vedi in cambio una svolta notevole, un'accelerazione o qualcos'altro? Io vedo un atteggiamento molto simile a Berlusconi, con la differenza che Berlusconi faceva tutte queste cose quasi col sorriso stampato in bocca, cioè era molto persuasivo, no? Questa destra invece è molto più arrabbiata, anche proprio l'espressione mimica facciale di Giorgia Meloni è quella di una persona arrabbiata, no? Che sembra far ridere, uno può dire è caratteraccio, ma in realtà è proprio un modello di governo, un modello di politico diverso rispetto al berlusconismo. Il berlusconismo era un sogno, un'evocazione di un modello diverso che potesse far stare bene tutti contro il pericolo comunista, no? Questo invece c'è un armamentario ideologico da parte di questa destra che in realtà è molto più rabbioso, e quindi l'occupazione è in corso, è netta, lo si vede da, appunto, dalle nuove trasmissioni che sono state dai nuovi conduttori, nuove trasmissioni nella televisione pubblica. Con Mediaset ovviamente continua ad essere una televisione amica, ci sono dei gruppi di giornali amici molto agguerriti. Diciamo che l'opposizione dal punto di vista mediatico al centro, alla destra nel nostro, in Italia, è veramente minoritaria, ma nonostante questo continua la retorica del vittimismo, ovvero i grandi media, i grandi giornaloni, certo, ce l'hanno con noi, sì, e noi siamo contro tutti. E questa è proprio la cosa incredibile, no? Di questa destra, che nonostante comandi, nonostante abbia il potere, nonostante sia in connessione sentimentale con il paese, davanti alla non risoluzione dei problemi preferisce dire abbiamo tutti contro. Sì. Fattivamente non è così, perché ci sono due o tre giornali, insomma, che possono essere considerati di opposizione, ma per il resto tutto il sistema mediatico è sicuramente accondiscendente rispetto a questo governo. Assolutamente. Ascolta, un'altra questione che in parte hai già accennato, ecco, però a me sembra interessante, perché diciamo, dopo la creazione del governo Meloni, gran parte della stampa internazionale, che all'inizio, dopo le elezioni dello scorso settembre, diceva il pericolo del neo postfascismo al governo in Italia, per di più nel centenario della marcia su Roma, beh, poi si è detto, beh, insomma, ma alla fine questa Meloni è più moderata di quello che sembrava. Ecco, insomma, tu sei d'accordo con questa visione della moderazione di Giorgia Meloni dopo l'arrivo al governo, o in realtà si tratta di un pragmatismo più o meno intelligente su alcune questioni dirimenti come la geopolitica o le relazioni con Bruxelles? Io penso alla seconda che hai detto, nel senso che con molta astuzia e furbizia da politica di professione, sicuramente abile qual è, Meloni ha dismesso in parte i toni, diciamo, a volte anche violenti che aveva avuto in passato, che sono usciti così per spot in alcuni momenti, soprattutto quando va all'estero, magari quando vede quelli di Vox o quando incontra l'internazionale sovranista di Orban, allora lì esce fuori un po' l'anima, diciamo, post-fascista, quindi richiamo a Dio, la patria, la famiglia e tutto, insomma, l'armamentario che sappiamo. Chiaramente lei in sé nel dibattito italiano cerca sempre di, insomma, ha dimostrato di poter vestire il panno della conservatrice, però poi nella realtà lo vediamo dalle numerose poi uscite o del Presidente del Senato o di altri sodali di partito, poi lì esce fuori proprio la radice ideologica politica di questo governo, cioè composto da persone che fanno del revisionismo storico, ad esempio, la propria cifra culturale, no? E quindi, ad esempio, poi all'atto pratico il ministro dell'istruzione Valditara, che riduce gli spazi all'AMPI nelle scuole, questo è un esempio molto semplice, la resistenza partigiana vista come qualcosa che divide, quindi la pacificazione significa mettere sullo stesso piano partigiani e repubblichini, insomma, gratta gratta, poi rimane davvero una premier un governo di estrema destra, sì. Che cerca furbescamente poi di vestire i panni giusti, quindi la scelta atlantica senza alcun tipo di criticità. Questo è stato un modo molto intelligente per certi versi di accreditarsi, la vicinanza esibita con la comunità ebraica. Voi ricorderete quel pianto fatto in sinagoga a Roma, ricordando quanto avvenne appunto al ghetto di Roma con la deportazione. Insomma, qualcosa che farebbe ridere se non facesse piangere, no? Un modo per provare a vestirsi di un abito pulito. Ascolta, un'ultima domanda complessa, ma diciamo telegrafica la risposta se riesci, Matteo, che è la seguente. Nel caso di maggiori difficoltà da parte del governo, no, sull'immigrazione, ma soprattutto penso sull'economia, che io credo che sia davvero la chiave principale, no, della stabilità del governo. Ecco, in caso di maggiori difficoltà, un po' di recessione, una manovra ovviamente basata sull'austerity, eccetera, tu vedi la possibilità di una instabilità del governo, o in realtà no, si tratta solo di un fuoco fatuo, in realtà questa maggioranza è così solida che arriva tranquillamente fino a fine legislatura? Io purtroppo temo che questa maggioranza sia in grado di arrivare a termine legislatura. Perché lo si è dimostrato, ad esempio, su un provvedimento importantissimo come era quella della tassa sugli extraprofitti delle banche, preso da Meloni e da Salvini senza neanche avvertire l'altro vice premier, che era Tajani, quindi quella parte di centrodestra più moderato e tra virgolette liberale. È qualcosa che, se ci pensiamo, ha una portata politica enorme. Sì. Cioè, che dimostra una maggioranza che di fatto nei provvedimenti più importanti non si parla, e nonostante questo non è accaduto tutto, perché comunque non è accaduto nulla, perché in realtà il potere cementifica. Allora, o veramente ci saranno eventi catastrofici che non mi auguro, tipo spread a delle cifre come quelle del 2011, e quindi un allarme sui conti internazionale così forte, e allora forse a quel punto potrebbe accadere qualcosa. Però insomma, questo è un governo che ha un grande consenso ancora nel paese, e la destra, quando è al governo, riesce a starci anche con punti di vedute molto differenti, perché appunto la vocazione al potere è molto forte, molto più che a sinistra. Quindi sì, non come vedo, come diceva Andreotti, no? Esatto. Torniamo sempre lì a Giulio Andreotti. Matteo Pucciarelli, grazie davvero di essere stato con noi, di averci accompagnato. In ogni caso, di tutte queste cose sicuramente ne riparleremo presto. Grazie a te e a tutte e a tutti. Ricordo che Matteo Pucciarelli è giornalista della Repubblica, autore di diversi libri. L'ultimo è Guerra alla guerra, guida alle idee e alle pratiche del pacifismo italiano, uscito per i tipi di La Terza. ci stanno accompagnando i Magic Bula Brass Band. Bella ciao amandoti. Avete sentito che è una rivisitazione in chiave di brass, infatti così anche canzoni in chiave di brass, il titolo del loro disco, di appunto questi due mitici brani, uno più mitico dell'altro. Bella ciao. Cappuccino con la moglie, le caramelle per le nipoti e il barbiere bendato e con i piedi legati nel Consiglio dei Ministri. Nuovo pacchetto di sostegni per le famiglie. Il ministro Giorgetti, priorità confermare il taglio di fantasia, ricerca e innovazione. Parigi blindata per la visita di Carlo e Camilla. I dubbi sulla pericolosa presenza di volatili che raccontano i risvolti più personali delle loro vite per farsi notare. Accelera la riforma del fisco, potrebbe arrivare prima di chi utilizza il cellulare alla guida. Incentivi per chi sceglie di non andare in casa per evitare lo sfratto. Molti passeranno la notte in auto su un raccordo autostradale. La Premier Meloni all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. L'imperativo farsi notare. L'Italia non sarà il pirata e signore dell'Europa. Stretta sui migranti, promessa alla Tunisia la temuta botola. Sulle passerelle della Fashion Week, che per la prima volta si terranno nell'aula della Camera, sfila una femminilità piena di stipendi più bassi della media europea. Pensavo che bastassero le parole shock di Piantedosi. E beh, abbiamo anche ritrovato le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvi a Banzo, che mancavano appunto ormai dalla vecchia stagione. Ritroviamo anche in questo nuovo formato. Esatto, più brevi, come d'altronde è più breve il nostro programma, che è passato a un'ora, vale la pena ricordarlo in queste prime puntate, poi smetteremo a un certo punto, ma mi concentrerei piuttosto molto rapidamente sulle notizie, perché l'imperativo è farsi notare sia per i volatili, suppongo francesi o parigini, che ricevono la visita, che disturbano la visita di Carlo e Camilla a Parigi, sia della Meloni alle Nazioni Unite. E quindi non so poi chi sia riuscito di più nell'obiettivo, e non penso fosse una gara fra i due. No, assolutamente. Io farei una piccola menzione finale anche sulla news che si vive alla Camera, no? Beh, le sfilate in Parlamento, cioè alla Camera, perché poi al Senato non sappiamo, sono effettivamente una cosa bizzarra, però diciamo che questa femminilità piena di stipendi più bassi della media europea non mi sorprende trattandosi dell'Italia. No, affatto. Ma insomma, in fin dei conti, anche quello di cui abbiamo parlato con il nostro ospite di quest'oggi, Matteo Pucciarelli. Ascolta Banzo, andiamo da ora ad ascoltarci un brano che è una meraviglia e che non ci arriva dall'Italia. Loro si chiamano Etran de l'Air e hanno suonato recentemente a Barcellona nell'ambito delle feste della Mercè. Introducicelo tu, per favore. Esatto, hanno suonato domenica scorsa nell'ambito del festival BAM. Si tratta di un gruppo nigerino, cioè del Niger, questa è una, diciamo che è un gentilizio su cui si fa molta confusione, e suonano quel genere che viene chiamato un po' impropriamente desert blues, perché hanno una strumentazione elettrica e ovviamente comunque diciamo che il canovaccio sonoro di partenza fa riferimento al folklore di quella macro area geografica. E però fin qui i miei commenti sono abbastanza freddi, perché si è trattato di un concerto assolutamente straordinario che si è tenuto nella Plaza Real, dove una volta aveva sede Controbanda, e, davanti a un pubblico molto numeroso perché era gratuito, che è rimasto completamente estasiato, e io ero fra i presenti. Ecco, adesso vi facciamo sentire questo brano, però tenete presente che dal vivo cambia tutto, perché è un brano sui 4 minuti, nella versione live ne è durato 10, quindi c'è un ampio spazio all'improvvisazione anche nei live degli Etran de l'Air. Loro appunto si chiamano Etran de l'Air, Agadez è il titolo del loro disco, questo brano si chiama Tubuk Ine Chiwasai. We'll be right back. Zibaldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Avete sentito che anche ritorna la rubrica dei libri del nostro Zibaldone con un libro che insomma si lega molto banzo alle cose di cui abbiamo parlato in questa puntata del nostro programma In Italiano Non Solo per Italiani qui sui 91.4 FM di Radio Contrabbanda Barcellona. Si parla di un libro che si titola L'erosione, come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa, la cui attrice è Tonia Mastroboni. Anche lei, come Matteo Pucciarelli tra l'altro, è giornalista di Repubblica, corrispondente da parecchi anni da Berlino, segue molto le vicende non solo tedesche, europee in generale, e come anche si capisce molto bene leggendo questo libro, che noi vi consigliamo davvero di leggere perché ci fa uno spaccato realistico e purtroppo pessimistico di quello che sta succedendo nel nostro continente e in realtà anche in Italia, se ci pensiamo bene, o quello che potrebbe succedere in Italia, segue anche molto l'Est Europa. Infatti questo libro Banzo in realtà racconta, a partire soprattutto da molti viaggi, interviste che Tonia Mastroboni ha fatto negli ultimi anni in Polonia e in Ungheria, della situazione nei due paesi dell'est, due paesi che ormai non si possono più considerare, soprattutto l'Ungheria ma ormai anche la Polonia, che tra l'altro andrà al voto tra poche settimane, il prossimo 15 ottobre, non si possono più considerare democrazie piene, liberali e pluraliste, ma insomma qui c'è anche un grande dibattito sui nomi, sono state definite autocrazie elettorali piuttosto che altri termini, no? Come anche, per esempio democratura, esattamente, o democrazie illiberali, che è il termine che Orban ha rivendicato e che era stato già alla fine degli anni 90 coniato da un giornalista e saggista come Fared Zakaria. Scrive Tonia Mastroboni: nei miei viaggi in Ungheria e in Polonia ho visto la democrazia spegnersi, ma è stata la cronaca di una morte annunciata, un'erosione programmatica avvenuta senza colpi di Stato, assalti ai palazzi o repressioni sanguinose, e sotto gli occhi di un'Europa inerme che ha tollerato che due paesi membri scardinessero dal primo giorno i principi che regolano le democrazie in Occidente, a cominciare dalla tripartizione dei poteri, il principio di Montesquieu, che imporrebbe l'autonomia dei poteri esecutivo, giudiziario e legislativo. A partire da qui, e parlando anche di storie di vita, Tonia Mastroboni ci mostra quello che è successo in Ungheria dopo il ritorno al potere di Viktor Orban nel 2010, un potere che il potere lo ha mantenuto Orban in questi ormai 13 anni, e in Polonia dopo il ritorno al potere, anche in quel caso, di Diritto e Giustizia, partito guidato da uno dei due fratelli Kaczynski, ma che ha avuto anche altri leader alla guida del paese come Duda o attualmente Morawiecki. Ecco, ed è un percorso che non solo ci mostra come appunto poco a poco, con picconate, la democrazia è stata distrutta a Varsavia e a Budapest, ma anche come per esempio In Ungheria una sedicenne può essere fermata da un poliziotto che la vuole arrestare per propaganda gender perché semplicemente sullo zainetto ha un arcobaleno, oppure perché a Varsavia i giudici non filogovernativi vengono accrediti in strada, perseguitati da molti colleghi in tribunale, gli viene impedito di fare il proprio lavoro, o come a Cracovia un giornalista della TV pubblica alla fine si è dimesso dopo tanti anni di servizio perché era davvero stanco, stufo di fare dei servizi proni al regime, e ora tra l'altro è sotto processo. O il caso dell'aborto, che è illegale in Polonia, e chi aiuta una donna in difficoltà e che magari vorrebbe abortire rischia il carcere, come alcune donne non vengono salvate nemmeno è a rischio la loro vita, perché i medici hanno paura a farla abortire, perché hanno paura di essere poi portati portati a processo dallo Stato, fino a parlare anche di un ventenne che in un paesino della Polonia, Pulawi, un comune giudicato LGBT free, si deve nascondere ogni giorno dalle ronde dei nazisti a caccia di omosessuali. Ecco, queste sono alcune delle storie che Tonia Mastrobuoni racconta in questo libro, L'erosione, come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa. Ed è un libro appunto che non solo ci mostra uno spaccato di quello che sta succedendo in due paesi che sono membri dell'Unione Europea, ma anche di molte dinamiche che purtroppo si stanno, diciamo, stanno arrivando sempre di più in molti paesi occidentali, e qui anche l'interesse di parlare di questo testo, di questo volume, in questa puntata dedicata all'Italia. Ecco, Tonia Mastrobuoni fa spesso dei riferimenti dicendo, beh, attenzione, il governo che si è creato in Italia, come sappiamo, è molto amico di Orban, di Morawiecki, alleati stretti di Meloni, e insomma il modello di paese, di società che stanno difendendo, che stanno cercando di imporre, assomiglia moltissimo a quella che oggidì c'è a Varsavia e a Budapest. Insomma, Banzo, è uno scenario sicuramente non ottimista, però purtroppo davvero realista. Sì, anche se c'è da dire l'osservazione che, diciamo, quello a cui stavo pensando mentre ti ascoltavo, è che è vero che in linea di principio una democrazia come quella italiana dovrebbe avere più anticorpi, anche se è vero che diciamo più o meno dalla fine della Prima Repubblica il processo di indebolimento delle istituzioni democratiche è stato costante, progressivo, molto graduale, però costante. Diciamo che forse nel caso specifico raccontato nel libro, cioè Polonia e Ungheria, si è trattato di un'erosione anche perché le radici della democrazia erano molto superficiali, nel senso che siamo passati all'inizio degli anni 90 da regimi assolutamente autoritari, ovviamente il socialismo reale, a una democrazia che era più che altro una tutela del libero mercato. È stato quello in gran parte del blocco orientale il grande cambiamento di segno, perché non c'è stato un lavoro, ad esempio, da parte delle democrazie occidentali più consolidate per favorire l'instaurazione di una situazione più salubre nelle neonate democrazie dell'Est. E infatti si è visto, perché mi viene da pensare con molta tristezza che quello che a Varsavia, a Budapest, si sta riprendendo dei precedenti regimi socialisti è soltanto l'autoritarismo e la censura, ovviamente declinato in un segno totalmente opposto, cioè destra tradizionalista, tutela della famiglia e l'opposizione ferma ai diritti civili. Effettivamente gente che si spaventa per una toppa arcobaleno si commenta da sola, ecco. Non posso che sottoscrivere quello che hai appena detto, Banzo, è assolutamente così, e in ogni caso, insomma, tutto è molto preoccupante, e quindi, insomma, consigliamo la lettura di questo libro che ci parla di paesi di cui spesso, insomma, non sappiamo molto o che seguiamo solo per qualche notizia saltuaria sui giornali. Noi siamo davvero arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, e vi auguriamo un buon venerdì sera, vi ringraziamo per averci seguiti, vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, ci sarà una puntata. Banzo, vogliamo aggiungere, dare qualche anticipazione? No, ci vediamo venerdì e palla al centro. Palla al centro, ecco. Grazie Banzo di essere stato con noi. Grazie a te, Steven, a venerdì prossimo. E ci salutiamo con una cosa, anzi, rimani qui con noi Banzo, perché ci salutiamo con una canzone che è molto particolare per l'ultimo trago, ossia insomma le canzoni cantate, uscite in Italia ma poi interpretate da artisti di lingua spagnola. Andiamo a fare un omaggio molto particolare, perché è un doppio omaggio agli 80 anni di Julio Iglesias, li ha compiuti qualche giorno fa, ma anche purtroppo alla scomparsa quest'estate di un artista poco conosciuto, ma che in realtà soprattutto per chi conosce Julio Iglesias in Italia è stato importantissimo, è vero Banzo? Luciano Rossi. Esattamente, Luciano Rossi, che a molti non dirà nulla, però Luciano Rossi è l'autore di un testo che è Se mi lasci non vale, che Julio Iglesias cantò prima in italiano e poi dopo tradusse anche lo spagnolo, lo cantò in spagnolo e così via. E tra l'altro poi Banzo è stato portato, insomma, ha successo da Julio Iglesias anche in America Latina, ma poi ci sono versioni che provengono da ogni dove, come quella che proponiamo noi quest'oggi per ricordare Luciano Rossi, per festeggiare, per così dire, gli 80 anni di Julio Iglesias, che è una versione fatta dall'Orchestra Internazionale della Polizia, proprio così, in Colombia. È una cosa un po' particolare, direi, no Banzo? Esatto, certo, non la stiamo trasmettendo perché per la nostra simpatia per le forze dell'ordine, come ben sapete, però si tratta di una curiosa linea di, diciamo, una linea del caos che porta da Julio Iglesias alla salsa merengue cumbia in modo totalmente inatteso, perché in realtà l'orchestra della polizia colombiana non è stata la prima a fare una cover in questo stile della canzone di Julio Iglesias, ma tutto parte dalla linea nel 1990, cioè un gruppo americano, ovviamente, che cantava in spagnolo e con membri di origine latinoamericana, che fu la prima a intuire le potenzialità del brano di Julio Iglesias in questo contesto di arrangiamento completamente diverso, che poi ha portato a molte cover che si rifacevano molto di più alla versione della linea che a quella originale di Julio Iglesias. Ecco, e noi ci andiamo proprio a sentire questa. Quindi a venerdì prossimo, buon venerdì sera, buon fine settimana. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, sia Enrique Tierno Galván. Scommetto che non sapete che il secondo cognome di Julio Iglesias è Della Cueva, io ve lo dico, ve la lascio lì. Ciao Banzo, ciao a tutti, godetevi questa Si me dejas no vale della Orquesta Internacional della Polizia de los Colombianos. Bye bye. Aventura que ya se ha olvidado. No quieres mirar, no quieres hablar. Tu orgullo está herido, te quiere marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido.